Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Possibili novità nel trattamento della chirurgia del tumore della mammella. I dati preliminari di un importante studio multicentrico italiano prospettano la possibilità di evitare lo svuotamento ascellare anche nei casi in cui i linfonodi sentinella siano positivi. A Obiettivo Salute il commento del professor Corrado Tinterri, direttore clinico della Breast Unity Humanitas Cancer Center e direttore scientifico di Europa Donna Italia. Professor Tinterri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, devo dire che questo è uno studio molto importante e molto atteso, perché nonostante questo cambiamento fosse stato prospettato da un precedente studio americano, proprio per le molteplici criticità di questo studio in Italia e in tanti paesi europei non aveva preso piede. Per cui 5 anni fa abbiamo cominciato questo studio tra tutte le donne che avessero un tumore iniziale, un'ascella completamente negativa, ma che purtroppo all'esame intraoperatorio il linfonodo o il linfonodi sentinella fossero coinvolti dalla malattia, erano ancora sottoposti a dissezione ascellare. Questo studio invece le randomizzava verso la possibilità di non farlo, donne che facevano solo una chirurgia conservativa. Ebbene, a distanza di 5 anni e con un follow-up intermedio di 30 mesi, presto pubblicheremo i casi, i dati, che in parte sono già stati anticipati a San Antonio, in America, a dicembre, in cui non abbiamo differenza in termini di recidività ascellare. E quindi da oggi, da queste settimane, abbiamo cominciato ad omettere la dissezione ascellare, proprio perché ci pareva particolarmente importante evitare questo danno nelle donne con un tumore iniziale come questo. Credo che tutti i centri che hanno fatto parte di questo studio faranno la stessa cosa, quindi è una bellissima notizia per l'Italia e non solo, anche perché i dati di questo studio erano molto attesi anche all'estero. Ebbene, questo sancisce probabilmente la definitiva omissione della dissezione ascellare nella chirurgia conservativa con donne che abbiano uno o due linfonodi macrometastatici in una ascella apparentemente negativa. Professor Tinterri, oltre che dal punto di vista chirurgico, quali sono le ricadute di questo nuovo approccio? Le ricadute sono enormi, perché voi se pensate che in Italia abbiamo 60.000 nuovi casi di tumore all'anno della mammella e quasi il 30% di queste donne hanno linfonodi coinvolti dalla malattia, pensate, omettere la dissezione in queste donne cosa vuol dire? Non solo evitare drasticamente il braccio grosso, ma evitare anche costi inutili aggiuntivi per il sistema sanitario, per le famiglie, per le donne che spesso a causa di questi svuotamenti ascellari devono stare lontane dal lavoro, devono fare delle fisioterapie per tanto tempo e avere ovviamente problematiche legate a questa alterazione definitiva del flusso linfatico e venoso del braccio. Quindi è una delle complicanze più temibili della chirurgia del tumore della mammella. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta.